Monte Citorio e dintorni di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio, questa settimana Montecitorio e dintorni va a Palazzo Madama ad incontrare Lucio Malan, senatore di Forza Italia. Buon pomeriggio, senatore. Buon pomeriggio. Cosa succede? Lei è senatore di Forza Italia da quante legislature? Dal 2001. Quindi, insomma, ne ha viste in Parlamento, al governo. Le era mai successa di aver assistito a una cosa simile? Cioè un cambio di governo senza cambio di maggioranza? Senza che della cosa venga data una giustificazione con un minimo di eleganza, cioè se Renzi avesse detto il governo Letta dovrebbe fare la tale cosa e il governo Letta dice non la vogliamo fare, allora dice beh, allora poniamo le cose, invece semplicemente una cosa, io sono più grosso di te, sono più forte di te, per cui tu te ne devi andare, una motivazione francamente sconcertante. Ricordiamo quanto ci si lamentava dell'irresponsabilità di Berlusconi che voleva far cadere il governo a ottobre, pensa un po', e invece improvvisamente quando lo fa cadere Renzi va tutto bene, non ci sono problemi. È davvero sconcertante. Quindi lei ha trovato abbastanza folle questa direzione del PD che ha di fatto decretato poi le dimissioni di Letta, che ricordiamo ha dato ieri a pranzo e hanno dato il via alle consultazioni adesso in corso al Quirinale. È già folle che l'abbia deciso la direzione nazionale, che è un organo, a parte il fatto che alle primarie del PD hanno partecipato, Renzi è stato votato da 1.800.000 italiani, gli elettori sono 50 milioni, per cui insomma forse bisognerebbe anche dare un minimo rispetto agli altri 48 milioni, ma poi la direzione nazionale del PD è un organo totalmente nominato, non è neppure stato scelto dai militanti del PD, sono nominati da alcuni dirigenti del PD, per cui è nominato, dove Renzi ovviamente ha avuto prevalenza nelle nomine, insomma sarebbe stato dignitoso almeno convocare un organo che mi pare si chiami l'Assemblea Nazionale. Noi quando a novembre abbiamo deciso se stare sulle posizioni di Berlusconi, che voleva togliere l'appoggio al governo, oppure su quelle di Alfano, che invece voleva continuare a sostenere il governo e starci, si è fatta un'assemblea nazionale con 700 e passa membri, mi pare 800 e passa membri rappresentativi, non su criteri decisi dai dirigenti, ma su criteri oggettivi di tutta la realtà del movimento nel paese. Senta, in questione di consultazione, cosa chiede Silvio Berlusconi e Forza Italia a Giorgio Napolitano al Quirinale? Ma io credo che, per quanto il Presidente della Repubblica possa garantirlo, il rispetto del voto degli italiani, il rispetto dei patti fatti per approvare la legge elettorale, sulla quale il Presidente della Repubblica ha profuso un impegno enorme e più che esplicito, e invece improvvisamente, visto che è Renzi che chiede l'intervento, il fatto di ritardare tutti i lavori di 7-10 giorni, non si sa di quanto, improvvisamente è anche questa una cosa di poco conto, insomma chiediamo che quello che è sempre stato imposto in generale che valga anche per il signor Renzi, che non si vede perché le regole che valgano per gli altri non devono valere per lui. Ma lei pensa che Berlusconi deve farsi perdonare qualcosa da Napolitano o Napolitano deve farsi perdonare qualcosa da Berlusconi? Io credo che una condizione di questo genere istituzionale non è questione di farsi perdonare. Di certo Berlusconi non ha nulla da farsi perdonare, il comportamento del presidente Napolitano invece è stato molto diversificato a seconda che il governo fosse di una parte o dell'altra. Quando Berlusconi era al governo, Napolitano faceva gli incontri, l'abbiamo appreso da autorevoli voci, faceva incontri per mettere su un altro governo con un'altra maggioranza. Quando invece c'era il governo Letta, ha fatto di tutto per blindarlo, ha detto mai porterò le elezioni anticipate, eccetera, eccetera, perché il pericolo era che lo facesse cadere Berlusconi. Se lo fa cadere Renzi, insomma, l'abbiamo sentito molto meno tonico, ecco, su queste cose, per cui insomma, purtroppo si è comportato parecchio come uomo di parte, come è, perché lui non è mica che viene da chissà dove, ma qualunque Presidente della Repubblica viene da un partito, ma di solito i Presidenti della Repubblica hanno cercato di apparire perlomeno super partes, questa volta direi che neppure l'apparenza c'è. Senta, senatore Malan, ma i Malini invece sostengono che dietro questa operazione Renzi in realtà ci sia Berlusconi che attraverso Alfano può insomma manovrare questo nuovo governo. Voi smentite? Ma noi siamo usciti dalla maggioranza che sosteneva il governo Letta perché vedevamo che le nostre richieste non venivano tenute in conto, tant'è vero che poi l'IMU, dopo aver promesso 3 e 4 e 5 volte che sarebbe stato tolto, poi alla fine ne è stato fatto pagare ancora un pezzo per il 2013 e adesso viene prontamente introdotta, sia pur cambiando di nome, nel 2014. Per cui se non ci si riusciva con tutto il Popolo della Libertà unito nei confronti di Enrico Letta, dubito assai che ci si riesca attraverso Alfano e il suo partito nei confronti di Renzi, che non mi sembra che tenga in gran conto neppure le opinioni del suo proprio partito, figuriamoci quelle degli altri. Berlusconi ha fatto fuori 8 leader, no? E lui è rimasto sempre sulla cresta dell'onda. Secondo lei farà fuori anche Renzi? Io spero di sì. È vero che come... O sarà Renzi che rottamerà Berlusconi alla fine? Mi viene in mente... Beh, Renzi ha fatto già il possibile, perché con la stessa lealtà con cui ha liquidato Letta, dopo avergli promesso chissà che cosa... Essendo uno che non ha paura del confronto, no, lui aveva detto che voleva arrivare al governo non attraverso vie giudiziarie o attraverso vie di palazzo, ma attraverso il voto degli italiani. Allora, per arrivare al governo ha prima messo fuori con le cose giudiziarie Berlusconi, perché lui ha dato ampia benedizione alla posizione del PD di applicare retroattivamente il decreto Severino. Non ha detto una parola sulla vergogna del voto palese al Senato in violazione sfacciata del regolamento. E poi è venuto meno la parola data per far fuori Letta. Diciamo davvero un uomo di parola, insomma. Credo che gli italiani si possono fidare di uno così, che fa sempre l'opposto di ciò che promette. Però questo si diceva anche un po' di Berlusconi, eh? Ma voi farete le riforme? No, io non saprei che cosa Berlusconi abbia fatto contro a parole date. Naturalmente si tira sempre fuori la storia che ha detto che abbassare l'età, che avrebbe abbassato l'età, se non le ha abbassate, in realtà sarebbe stato bello poter fare di più, ma non saprei davvero un episodio in cui Berlusconi ha detto una cosa poi facendo esattamente l'opposto. Allora ringraziamo il senatore Lucio Malan di Forza Italia, noi vi diamo appuntamento come al solito a sabato prossimo. Grazie.